Control Radio. My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Lunedì 13 aprile, buonasera a tutti. Buonasera. Torna dopo la pausa pasquale Ragnar Pfizer. La famosa pausa pasquale. Famosissimo. Come quello di Grande Fratello Pasquale. Questa settimana c'è un monte di serate, quindi ora intanto ve le butto lì un pochino, perché poi fine settimana Record Store Day, sabato, giusto? Sabato 18. Sì. Sabato, quello poi ve lo ricordiamo dopo, a parte proprio. Intanto prendete carta e penna e segnatevi un po' di situazioni di questa settimana. Si comincia il 15 con Summer Vibes, la serata curata da Bampai, a Life Club, che è il vecchio Cargo, in via dell'Erta Canina. Quindi per gli appassionati di reggae si comincia così con il 15. Poi il giorno dopo, questa ci riguarda strettamente, Back to Basics, serata di rispolveramento vinili, Tsunami Movement e Schoolboy, io e Duccio, al Cargo Social Club in via Mannelli, questo giovedì. Poi sempre giovedì al Rex c'è Dre Love e Johnny Tomato per la serata Have a Different Experience del Rex del giovedì. Poi sempre giovedì c'è Cody Chesnut alla Sala Vanni, sì, questo diciamo per quanto riguarda i live concerti proprio ufficiali. Official. Il 17 invece venerdì alla Flog, sempre per chi vuole andare a fare una serata di reggae, Janine, questa nuova cantante di cui ho sentito ben parlare. Con subito dopo da Roma Cool Runnings a suonare fino a fine serata. Detto ciò, il resto ve lo diciamo più tardi, è tutto quello che concerne il Record Store Day di sabato, eccetera. Quello ve lo diciamo dopo. Per adesso a posto così e poi ci riaggiorniamo fra un po'. Va Duccio. Ricordo il fresco del portone sotto casa mia, l'odore del quartiere e la sua geografia. Senza storia queste strade solo apatia. Scrivo storie di sti tempi contro la follia. Noi e fame nelle strade porta perso la pazienza e cosciente. All'aria aperta come in gabbia d'impotente. Questa è la realtà, cresciuto nel degrado urbano, allo stato brato. Ovunque vado questa storia si ripete, società depressa. Canto e pop come una messa mentre libero l'anima dalla follia del quotidiano. Con il cuore in mano canto questo blues per il disoccupato condannato da sta crisi che non ce l'ha fatta e alla fine ci ha lasciato. Un altro morto ammazzato nella cronaca giornaliera, nella cronaca giornaliera. Un altro morto ammazzato nella cronaca giornaliera, nella cronaca giornaliera. Un altro morto suicida nella cronaca giornaliera, nella cronaca. resto a casa con i miei dischi. Cina, Cina, Hamilton, jazz, samba nella session con Mil Jackson. Mega free come Don Cherry, Don Ellis. Arrivo con i vecchi Davis, Art Becky alla batteria, sulla scia del treno con di Coltrane. Jazz piano, Armando e Tristano, Art Ensemble con Chicago, me la svago. Fuori piove, resto a casa con i miei dischi. Da Basil Gear, Cina, Chico, Hamilton, jazz and samba nella session con Mil Jackson. Mega free come Don Cherry, Don Ellis. Arrivo con i vecchi Davis, Art Becky alla batteria, sulla scia del treno blu di Coltrane. Jazz piano, Armando e Tristano, Art Ensemble con Chicago, me la svago così. Divago verso Cina con Castini, Valdambrini, fra Urbani e Siellani, Enrico Rava, Perigeo, Piero Umiliani, Mario Schiano, padre del jazz italiano e non ci credi. Jimmy Smith, Grant Green, Donna Bailey, a moving on, Anthony Braxton, Donna Bird, Oscar Peterson, Ellington, Lodon, non so come scordarsi, Sanders, Sandra, Charlie Parker, Lee Morgan, ora Silver. Super jazzy quando entro, dopo la intro, con i nomi dei migliori. Ragnar Piper. Non ha bisogno di presentazioni questo stile che sentite qua sotto. Trattasi di footwork, genere che si è un po' affermato a livello mondiale negli ultimi 3 anni. Questo per l'esattezza è Arpi Bu, e questo 12 pollici Classics volume 1 uscirà per Planet Mu, chiaramente in vinile e in digitale, il 6 aprile, 6-7 aprile immagino, 6 in Inghilterra e il 7 aprile nel resto del mondo. Altra uscita che ho suonato all'inizio del mio set sono tre tracce estratte dal nuovo disco di Herrera. Nuovo, in realtà è già uscito tre settimane fa. L'avevamo anticipato, però non avevamo avuto il tempo di suonarlo. Scusatemi, ma sono raffreddato proprio all'inverosimile. Alla Ramazzotti. Alla Ramazzotti, è chiaro. Solo io mi sono raffreddato a prendere vento. Dicevamo, il disco di Herrera, che si chiama Herrera aka The Black Kale, e lo trovate facendo una donazione a vostro piacimento su medesign.bandcamp.com, che è l'etichetta del Herrera, dalla quale Bandcamp potete anche andarvi a scaricare, ad acquistare l'album di Beats, Breaking Beats volume 1. Un'altra uscita importante di oggi è il disco dei Blue Beaters, che dopo diversi anni dall'ultimo combo, mi pare si chiami, che vedeva Giuliano Palma alla voce, esce oggi Everybody Knows per Record Kicks, che è l'etichetta di Cult, North and Soul, Boogie, eccetera, di Torino. C'è il ritorno in formazione. Questa nuova formazione vede alla voce Pat Cosmo e Hey Patrick, che saluto e abbraccio. Patrick Casino Royale, cioè no, il primo che capita. No, uno sì. Il disco, come al solito, chi conosce i Blue Beaters sa quali sono le sonorità, quindi non è che devo stare a spiegare chissà quanto. Rocksteady, Blue Beat, Ska, roba di cover, di matrice reggae fra virgolette, ma anche robe più strane. Ultima cosa prima di lasciare andare Colossius: è online la nuova puntata, ovvero la terza, di Down with Bassi, che è questo talk show online che vede Bassi Maestro questo e Bosca. Salottino. Sì, Bassi Maestro e Bosca in stile Rispoli, tappeto volante dell'hip hop italiano. Sì. E l'ospite di questa terza puntata è Don Joe dei Club Dogo. La scorsa c'era ospite Enzi, mentre Fritz da Cat nella prima. Le trovate tutte sul canale Down with Bassi. Ecco, per chi se l'era persa. Quindi consigliamo la visione delle puntate di Down with Bassi, e mentre ci vediamo fra poco, ascoltatevi Colossius con il suo set. when you move like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down. Bring it. Love it when you flex like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when I see a pretty girl whining. I can even watch her butt as girl grinding. Control the body with great timing. Ain't shy in the dark, they're shining. Dark something to me when I see her vibing. Drop it like a something, got my things rising. So frequent, there's no disguising. What you expect? That ain't surprising. These girls got my blood pressure rising. The wiggling, the jiggling, I'm hiding. Shaking the back off, it's so inviting. So natural, so exciting. Just to be honest, I wanna get right in. Better down with the man, them fighting. Stop what they wishing, I might as well try to. Excuse me, you really gotta say something. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. Girlfriend, how you whine like that? Beautiful, you look so fine like that. Ain't seen it for a long time like that. You should go to jail for a crime like that. Bust up the floor, you don't cut no slack. Dark soul queen, you're not a tall laid back. Make up for all the other girls lack. Look so good, you got me going up to I can't even chat. Got my heartbeat going rat tat tat. So serious, you got me ill like that. Temperature rising, though I feel like that. Not for real, you can kill like that. Move your body with your skill like that. I can't get enough, though it's real like that. I love it if you flex with feel like that. Cause I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down. Bring it back. Okay, alright. Let's dance all night, alright, okay. Let's dance all day, okay, alright. Let's dance all night, alright, okay. Let's dance all day. Hey Chuck, we got some non-believers out there. Yo, we got to do something about that, man. Yo, we got to get stupid. Yo, we got to let them know what time it is. You go through and I when I jump in my car. People treat me like a rim and dudes are falling out of who you are when I'm up the par. I bet you go hip hop, hooray and raw. But the eyes and ooze is my kind of news. Pop your tape in, put the car in cruise. I never heard the booze, I never drank booze. Cause I just rock a rhythm, left alone the blues. The L eyes and stink, you sneak the peek and look. And then you know that we never wake. I'm here and everything is straight. Cycles, cycles, life runs in cycles. New is old, no I'm not no cycle. A monkey on the back makes the best excel. The people in the crowd makes the best rock well. The people walking in the shade. I catch a glimpse of your reflections, and I don't know what to say. Insomma, si diceva anche ai ragazzi che in apertura del tuo set, caro Andrea, hai suonato due tracce estratte da Sleepworks remix di Elsewhere. Sì, che esce tra poco, il 23 aprile sarà fuori su Voodoo Rebel, ed è appunto l'album dei remix del disco di Elsewhere, che era appunto precedentemente uscito, sì, sul Voodoo Label nove mesi fa. Vede otto tracce, otto remix di artisti. Tu hai suonato Lunar e Piezo, giusto? Sì. Però insomma ci trovate anche Chrono Slash, Spin-Off, Numa, Colossius appunto, Lies e Groove Kingsley. Insomma, tutta gente che chi segue Ragnar Paisa dovrebbe conoscere. Passiamo ad elencare un po' le situazioni che ci sono, che ci saranno il prossimo sabato. Sì. Che altro che non è il Record Store Day. Partiamo un attimo dal giorno prima, partiamo da Pisa. E venerdì 17 ci sarà la batteria live in quella del Lumière, vicolo del TD6. La batteria ne avevamo già parlato, avevamo suonato il disco, l'omonimo disco che è uscito un paio di mesi fa, gruppo dove compare Nerattini, Paolo Pecorelli, eccetera eccetera. Per gli appassionati di sonorizzazioni e colonne sonore, insomma, chi ha la possibilità di andare a Pisa lo consiglio veramente. Il giorno dopo Nerattini si fermerà al San Antonio 42, che è appunto il negozio di dischi di Pizzo e Drago a Pisa, per una selezione di vinili. Insomma, chi conosce Nerattini, per chi non conosce Nerattini vi posso garantire che è uno dei più grossi collezionisti di dischi, assolutamente, per quanto riguarda le sonorizzazioni e le colonne sonore che io conosco in Italia. Invece, stando a casa nostra, classico pomeriggio dal Danex Record in via degli Artisti 8C, dove ci sarà presente Manu dell'Archeo, grande, Luca Fani e Guido Caselli. Invece al nuovo negozio, la nuova apertura, che quasi mi vergogno a dirvi l'indirizzo, vi dico giusto davanti al Battistero e non vi sbagliate, negozio di nuova apertura, negozio di dischi e locale Move On, chi ci sarà? Ci sarà Bundu, Guerra e Pise, quindi la vecchia scuola dei Digger fiorentini, che per l'occasione, appunto per il Record Store Day, che è un po' la giornata mondiale dedicata ai negozi di dischi al vinile, questo nuovo negozio che ha aperto da pochi giorni in Piazza Duomo davanti al Battistero. Ci sarà appunto un set di Guerra, Bundu e Pisi per l'occasione, e quindi ci sarà anche una sorta di inaugurazione del posto, quindi una birra gratis per tutti e bla bla bla bla bla e via festa. Birra, e poi insomma non una birra a caso, non è che venite a bere la San Miguel per poi andare per la San Miguel Boseppe e poi andare 5 volte in bagno in un quarto d'ora, cioè venite a bere della birra super. Concludiamo la serata per chi rimane senza postumi dal Record Store Day al Life Club, che è in via dell'Erta Canina, quindi l'ex cargo. E ci sarà una serata revival anche qua, ovvero Apnea. Chi frequentava una quindicina, ma anche una ventina, una decina d'anni fa, una decina, quindicina d'anni fa, il Mood, storico locale di Firenze in corso Tintori, non può non conoscere la serata Apnea, storia di drum and bass. Quindi a Life due sale, nella prima sala Shinjin, Biga e Ivan Villa, nella seconda Johnny Boy e Kance. Insomma, manca solo all'appello il buon vecchio Fabroni, che però per motivi logistici non potrà raggiungere, e anche Liam. E anche Liam, chiaramente. Gli mandiamo un salutone al Fabbro, un super abbraccio, e lasciamo andare Tommy per il suo ultimo set. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. Rimanete con noi fino alle 22:30. Ragnar Paisa, Contro Radio. Roy, you call your friend Pussy. Thank you. vampire. Kumanda kwa bambu wanga, kumalila chiani, kumalila mikango, kumalila ngwenya. Kumalila ngwenya, kumalila mikango, kumalila ngwenya. Kumanda kwa bambo wanga, kumalila chiani, kumalila mikango, kumalila ngwenya. Kumalila jani, kumalila ngwenya, kumalila mikango, kumalila ngwenya. Right now, I'm